Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempo di coronavirus. Chiaramente buona parte della trasmissione sarà dedicata all'accordo raggiunto ieri serata a Bruxelles e la qualità dell'accordo. Poi però parleremo anche dei tempi sulle riaperture, visto che la bozza che sta circolando fino al 2 maggio, c'era già su molti giornali oggi, fino al 2 maggio, tranne poche attività, produzione di carta, cartolerie, forse abbigliamento per bambini, se sapranno mantenere le distanze di sicurezza, per il resto cambia poco. E l'altro tema che affronteremo non è tanto quando, 24, 2 maggio, ma la necessità, intanto per il mondo economico, ma in generale oserei dire anche per tutti noi come cittadini, di non avere un aggiornamento ogni due settimane, nel senso che adesso a mio avviso il governo dovrebbe, con la task force, con quello che vuole, iniziare a dire: guardate, per carità, fino al 2 non si apre, però la roadmap, la tabella di marcia avrà queste scansioni, salvo poi notizie, diciamo, improvvise che nessuno si augura, o capito, emergenze improvvise che nessuno si augura. Perché lo dico? Perché da questo punto di vista la sensazione è che al di là delle prime settimane di emergenza totale, adesso il paese si aspetti un po' di orizzonte. Non si può andare avanti di due settimane in due settimane, il che non è una critica né al governo in senso stretto né ai virologi e al comitato scientifico. Qualcuno mi scrive: ma la curva dei contagi non si può programmare. Ho capito che non si può programmare, ma non possiamo neanche dire al paese per ora due settimane. Ne parleremo con uno psicologo, con Legrenzi, perché questo crea ulteriore incertezza in una situazione di già enorme incertezza. Per cui non sto dicendo che uno possa dire adesso la data precisa, sto dicendo attenzione, bisogna dare anche un po' di prospettiva intanto alle imprese per capire sulla base di quali criteri potranno riaprire per mettersi in sicurezza, e poi proprio a livello psicologico per il paese. Io farò gli esempi, insomma, di cosa succede quando uno è in convalescenza. È chiaro che il medico non ti dice mai sicuramente uscirai o passerai la fase 2 quella data, ti dice però se tutto va bene fra 3 settimane potrai muoverti verso un'altra fase, e poi fra... Ho capito che è molto più difficile con un virus, una pandemia mai nata, ma non si può neanche non toccare il tema della, diciamo, della, di dare un minimo di orizzonte che è sia psicologico ma anche economico al paese. Però, dicevo, buona parte verrà dedicata all'accordo di ieri. Qualcuno mi chiede già un giudizio, ma adesso ne parleremo con ospiti ben più prestigiosi di me. Il mio giudizio è che la montagna abbia partorito un topolino, nel senso che vedo che il principale quotidiano olandese, Der Telegraph, dice: abbiamo vinto, sì, hanno vinto tutti, cioè siccome è un accordo politico, certo non sono passati gli eurobond e una mutualizzazione del debito, c'è questo fondo per la ricostruzione, questo fondo che si chiama per la ripresa economica, che è poi il vero quibus, ma verrà affrontato nel prossimo vertice il 23 aprile a Bruxelles, vertice dei capi di Stato e di Governo. Tutto il resto è poca roba, nel senso che la BEI già la conoscevamo, il SHU già lo conoscevamo, il MES senza condizionalità è solo per le spese mediche dirette o indirette, pari al massimo al 2% del PIL, che a casa nostra vuol dire più o meno, mal contati, 35 miliardi, 36 miliardi di euro, il 2% del PIL. Però vorrei anche far notare che noi comunque contribuiamo al MES per quello che riguarda, adesso vi do anche il dato esatto, noi siamo il terzo contribuente del MES dopo Germania e Francia, abbiamo il 17,8% del capitale, che è pari a 125 miliardi teorici, ne abbiamo già versati 14,5. Qui è ovvio che non c'è nessun obbligo a utilizzare questi fondi, questo lo capisco anch'io, però... diciamo, se uno si aspettava un piano forte, non è arrivato un pianoforte, tant'è che appunto festeggiano tutti. E poi vi leggerò il commento di un economista belga molto ascoltato, professore alla London School of Economics, che dice c'è un'ipocrisia di Germania e Olanda che aumenterà la spirale del debito. Anch'io noto una grande ipocrisia nei commenti che ho visto oggi, comunque da parte tedesco-olandese. E detto questo, poi sì, ho visto la proposta che è arrivato dal PD di un contributo di solidarietà, non mi convince, nel senso che, poi chiamiamo le cose col loro nome, è una specie di patrimoniale per i redditi più alti sopra gli 80.000 euro e fino con poche centinaia sopra gli 80.000 euro e fino a migliaia di euro per chi ha più di 1 milione di euro. Non mi convince per un motivo molto semplice, che ho visto che il gettito dovrebbe essere 1,3 miliardi all'anno stimato, auguri. A mio avviso meglio arrivare a un debito da sottoscrivere, quello che aveva proposto l'ex ministro Tremonti, che oggi sarà nostro ospite, e cioè un'obbligazione a lunghissima scadenza garantita nei rendimenti per legge, nella tassazione per legge, una specie di prestito nazionale in cui almeno io sottoscrivo un'obbligazione su cui ho un rendimento e che posso anche rivendere sul mercato se è trattata sul mercato secondario. Mi convince molto di più questo che non l'idea di un così, quello che hanno chiamato un contributo di solidarietà oltre gli 80.000 euro. Tanto i 5 Stelle hanno detto di essere contrari, quindi mi sembra che la proposta possa avere poche chance. Allora, qualcuno mi dice guardi che l'Olanda andrebbe punita come lista nera di paradisi fiscali. Sì, lo so, non è così facile farlo all'interno dell'Unione Europea, ho visto anch'io la proposta, anch'io penso che forse qualche strumento vada studiato nei confronti dell'Olanda, ma non come ritorsione, come dire vabbè adesso vediamo un attimo se proprio tu sei qui a darci lezioni. Ma al di là dell'Olanda, che poi dietro aveva la Germania, inutile girarci attorno, la patrimoniale non mi convince, non per il mio reddito, lo dico un ascoltatore, non mi convince perché è un'operazione una tantum, spaventa e quant'altro. Invece sono più dell'idea che a questo punto un prestito italiano da dare, cioè da sottoscrivere soprattutto da parte degli italiani, un prestito diciamo per rilanciare il paese, però fatto con rendimenti è fatto con la possibilità di venderlo, come qualunque obbligazione la puoi vendere sul mercato, mi convince molto di più, non c'è dubbio, non vedo perché, almeno lì sono io che presto i soldi al paese, ho un minimo di rendimento, ho un rendimento e poi entro in un mercato, così. Mi è sembrata anche una, se posso dire tutta la parte del PD, una mezza cavolata tirarla fuori oggi, anzi una cavolata e basta. Allora, per quello che sì, è sul reddito, non è sul patrimonio, avete ragione, da un punto di vista tecnico non è sul patrimonio che uno ha, ma è sul reddito che uno percepisce. E mi piace ancora di meno su questo, perché sappiamo che questo è un paese che ha redditi molto tassati e patrimoni molto alti, allora se devo dirla tutta, ma perché non andare a di nuovo a un prestito nazionale? Comunque, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Mi chiedete delle borse, do subito l'aggiornamento, le borse sono tutte chiuse oggi, quindi c'è poco da fare aggiornamenti. Ricordo la chiusura di ieri, era più 1,40 alla fine Milano e più 2,20 Francoforte e più 1,40 anche Parigi, ma oggi i mercati non possono dare alcuna reazione all'accordo europeo perché sono chiusi, inizia infatti il periodo pasquale. E allora sì, tra l'altro paventare patrimonio, no, ma non è una patrimoniale, il PD propone sui redditi in base al reddito, non in base al patrimonio. Detto questo, no, l'obbligazione che andrebbe sottoscritta, proposta da vari economisti che sono venuti in questo programma, sarebbe trattabile sul mercato come tutte le obbligazioni, perché no? Per cui comunque quello che manca in questo momento è l'idea, al di là delle misure messe in piedi dal governo, di soldi che non adesso ma fra qualche mese. Perché dico non adesso? Perché adesso ci sono delle misure tampone, i mutui per la casa, i prestiti, la sospensione delle scadenze fiscali, andrà rivista anche la scadenza poi prima dell'estate, a mio avviso, per carità, la cassa integrazione, i 600 euro quando arrivano, ma questi sono provvedimenti tampone. Poi bisognerà, come continuo a ripetere, su molti settori di impresa, non su tutti, andare a vedere il danno vero, un danno che non finirà con i due mesi di, diciamo, di lockdown, di chiusura, perché in alcuni settori, servizi, ristorazione, turismo, andrà avanti per mesi ancora. E lì, a mio avviso, se non vuoi far saltare tutto, devi dare anche soldi quasi a fondo perduto. Perché dico quasi? Perché un conto è un prestito a 6 anni, un conto è un prestito a 50 anni, o a un'entità anche maggiore. E lì ti serviranno soldi a fondo perduto, cosa che l'Europa non sembra capire, tratta questa come un'emergenza sanitaria, così, appunto, vedi il caso del MES. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook, le altre notizie. Tra l'altro segnalo che è interessante quanto ha previsto ieri Moody's, l'agenzia di rating, perché dice che quest'anno la Germania avrà un calo del PIL superiore a quello dell'Italia, meno 3% la Germania, meno 2,7% l'Italia, Spagna e Francia un po' meno, meno 1,4% la Francia, meno 1,8% la Spagna. Ripeto, non ho altre indicazioni sulla riapertura, fino al 3, insomma, le indicazioni sono tutte quante che forse potrebbe aprire da qua al 3 maggio, ripartire il commercio di carta, cartone, articoli di cartoleria, le librerie, negozi di vestiti per bambini neonati, ma se sanno garantire le regole di sicurezza. Confindustria fa notare che c'è bisogno, se anche si immagina uno scenario di fine epidemia a giugno, fa bisogno di liquidità, sarà di 30 miliardi in gran parte necessari tra aprile e giugno, e sulle misure per tamponare l'emergenza e liquidità delle imprese. Oggi è intervenuto con Simone Spezia e Maria Latella 24 mattino il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, che ha detto speriamo di non doverlo implementare, ma se ci dovesse essere esigenza c'è la disponibilità del governo a implementare il decreto. Abbiamo avuto rassicurazioni dal governo che se ci fossero criticità sia in termini di procedure che di risorse il decreto sarà implementato. In questo momento bisogna dare atto che la entità di risorse è sicuramente importante. Se bastano meno purtroppo non lo sappiamo, perché dipende anche qui dalla durata dell'emergenza. Ieri proprio il Presidente del Consiglio e il Ministro Gualtieri hanno anticipato a tutte le parti sociali che ove dovessero esserci sono disponibili chiaramente a confrontarsi per evitare errori e criticità. E poi sull'accordo con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha detto il Presidente di Confindustria Boccia, l'ABI ha assicurato l'immediatezza delle pratiche. Il Presidente dell'ABI che ci ha assicurato della volontà e della capacità del sistema bancario di lavorare quanto prima e con immediatezza queste pratiche, e lo verificheremo nei prossimi giorni. Ma da quello che ci dicono, da quello che avvertiamo, da come il sistema bancario è orientato nella conoscenza dei propri clienti, perché in realtà questo è, tutto questo dovrebbe avvenire in tempi veloci, nell'interesse di tutto, delle stesse banche, tra l'altro. Ancora due notizie. La prima riguarda la grande distribuzione, che è l'unico settore che sta andando bene, supermercati soprattutto. Io chiedo a tutti gli operatori se si riescono anche, questo è un inciso, continuo a vedere, giustamente ci sono file molto lunghe davanti ai supermercati, anche di anziani. Io non so se sia possibile, però se le varie Conad, Esselunga, Coop, non voglio dimenticare le altre, insomma Auchan, quelle che potessero mettere anche qualche servizio soprattutto per gli anziani, perché sotto il sole obiettivamente, dico, dell'acqua, una panchina, qualcosa, tanto non vi mancano i soldi in questo periodo. Su, dal 30 marzo al 5 aprile le vendite della grande distribuzione hanno fatto più 2,2% sul periodo precedente, soprattutto il nord-est è molto alto, più 6%, il sud più 5,8%. Per quello che riguarda invece le vendite, le uova di Pasqua hanno fatto meno 34%, le colombe meno 50%, quindi 5 milioni e mezzo contro gli 11 milioni, le uova di Pasqua 10 milioni contro i 15 milioni precedenti, invece poi ci sono delle cose che denotano come tutti stiano cucinando a casa, ovviamente. Il lievito di birra ha fatto più 217%, le farine più 176%, mascarpone più 155%, gli ingredienti per pasticceria più 150%, l'alcol denaturato più 130%, i guanti più 124%. E poi interessante anche il rapporto Nielsen, il caffè macinato più 20%, le conserve rosse più 37%, i biscotti più 9%, la pasta più 10%, conserve animali più 10%, riso più 15%, carta per la casa più 21%, detergenti più 20%, carta igienica più 4%, sapone ovviamente più 41%, detergenti per superfici più 30%, candeggina più 35%. Le farine hanno fatto più 176%, le uova più 50%, burro più 70%. Insomma, sono tutti segnali di quello che è anche il cosiddetto comfort food. Dolci più 63%, cioccolato più 21%, miele più 51%, patatine più 17%, gelato più 22%. Il vino nella grande distribuzione più 20% e birre alcoliche più 18%. Sono tutti segnali di come sono cambiati i consumi degli italiani. Non voglio dire che poi i singoli settori citati, penso al vino, agli alimentari, vadano complessivamente bene, perché non hanno più un canale fondamentale per loro che è l'Horeca, l'hotel, ristorazione e catering, però almeno compensano, diciamo, da questo punto di vista. Comunque, andiamo al primo e lunghissimo tema di questa prima ora, e quindi l'accordo raggiunto ieri in serata. Festeggiano tutti, festeggia anche Der Telegraph, il principale quotidiano olandese. Le dichiarazioni sono queste: la domanda che tutti mi stanno facendo, il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? Allora, la mia personalissima e modestissima opinione è che il bicchiere può essere mezzo pieno, mezzo vuoto, però bisogna vedere quanto è grande sto bicchiere. Per dirla la veneta, se è un'ombra, un piccolo bicchierino può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma sempre di un'ombra stai parlando, diciamo, se la metafora etilica può aiutare. Se è un bel bicchiere grande può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma cambia. A me sembra che infatti qui stiamo parlando di un bicchierino, di un'ombretta, di un topolino che è uscito da una trattativa per non scontentare nessuno e che rimanda la palla grossa, il fiasco, così uso, al prossimo vertice del 23 aprile. Perché? Perché i quattro pilastri, a questo punto usciti ieri, ce n'erano già. La BEI cosa farà? Fondo della Banca Europea degli Investimenti, fondo da 25 miliardi per attivare fino a 200 miliardi di euro per le aziende, soprattutto le PMI. Un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi. Il SURE è quello proposto dalla von der Leyen, quindi il pacchetto che deve garantire la cassa integrazione, l'assicurazione per i lavoratori che possono perdere il lavoro, ma i fondi sul SURE non sono molti, per attivarli ci vogliono garanzie. Oh, poi veniamo al MES, il famoso MES. Al MES sono state levate le condizionalità, cioè l'idea che poi uno dovesse essere commissariato e da fuori ti dicono come rimettere a posto i tuoi conti, visto che hai utilizzato i soldi europei, solo per le spese in sanità, che possono arrivare fino al 2% del PIL del paese dell'anno scorso. Per noi vuol dire 35-36 miliardi. Per il resto invece vale ancora la condizionalità. Poi c'è allora, questi tre pacchetti, BEI, SURE e MES, valgono complessivamente 500 miliardi. Poi c'è il grosso, appunto il fiasco, che è la proposta francese di creare un fondo finanziato da obbligazioni comuni, titoli comuni, per finanziare il rilancio dell'economia, il cosiddetto fondo per la ripresa economica, di cui non si sa ancora però nulla, perché verrà stabiliti i criteri e i dettagli nell'incontro del 23 aprile. Quello da solo dovrebbe valere 500 miliardi, però siccome ancora non se ne sa nulla, per ora ci sono i 500, poi dovesse essere attivato anche questo, sarebbero altri 500 miliardi. Che cosa? Il SURE vale massimo 100 miliardi. Il problema è che noi abbiamo già versato al MES 14 miliardi e mezzo, quindi di questi 35-36 di carattere sanitario, per spese sanitarie dirette o indirette, metà le abbiamo già versati. Però questa è la mia personalissima opinione, non vi sto neanche a ricordare tutte le dichiarazioni. Gentiloni ha detto la prossima sfida è il fondo per la rinascita, appunto quello che dovrà essere affrontato il 23 aprile. Dombrovskis ha detto studiamo l'interazione bilancio europeo recovery fund. A me sembra che oltre che bicchiere essere un bicchierino, la palla si sia spostata, è stata lanciata nel campo del prossimo Consiglio europeo. Il mitico ministro delle finanze olandese Hoekstra, buon accordo per l'Europa e per l'Olanda, ecco la seconda parte mi fa pensare un bicchiere mezzo vuoto. Siamo e resteremo contrari agli eurobond e il fondo salva stati si può usare senza condizioni solo per le spese mediche. Il Der Telegraph titola l'Olanda ha vinto la battaglia europea, ognuno però, anche i quotidiani francesi dicono ognuno ha vinto. Allora Alberto Arioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buon pomeriggio, ciao Sebastiano, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E grazie per essere tornato anche all'ex ministro, il professor Giulio Tremonti. Avevamo promesso che una volta diciamo chiusa la trattativa a Bruxelles avremmo sentito di nuovo la sua opinione. Buonasera professore. A voi. Allora Alberto e poi professor Tremonti, prima della pausa del meteo e della pubblicità. Io ho detto, più che bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, un bicchierino, un topolino partorito in cui tutta la palla grossa si sposta a fine aprile. Alberto. Sì, sono d'accordo, è vero. Però è anche vero che c'è un obiettivo politico da negoziare ulteriormente in una fase 2, che è quello di un fondo nuovo da ricavare all'interno del bilancio europeo, pluriennale europeo, con modalità di finanziamento comuni, che non vogliamo chiamare Eurobond, si chiameranno come andranno chiamati, ma che è stato fissato nero su bianco. Ora stanno dicendo tutti che hanno vinto, perché chiaramente questo è un compromesso e come tutti i compromessi o tutti perdono o tutti vincono, diventa solo un problema di tecnicalità comunicativa, io credo. Forse farebbe bene anche l'Italia a tirar fuori qualche vaga forma di vittoria invece di incistarsi su questa polemica di bandiera, su questa questione degli Eurobond come sacro graal, che è stato un errore sia nella rodomontata iniziale per cui noi avremmo fatto chissà quale fuoco e fiamme, altrimenti saremmo andati da soli naturalmente sugli scogli finanziari evidentemente, e sia adesso di far finta che appunto c'è la grande vittoria solo della parte rigorista dell'Europa e noi invece teoricamente abbiamo perso. Ripeto, non vince, non perde nessuno quando fai i compromessi, ci sono un po' di risorse in campo, non sono banali. Per esempio l'Italia potrebbe accampare il fatto di dire che il MES con condizionalità ridotta è stato comunque portato a casa, limitato alle spese sanitarie, va benissimo, però nulla vieta di utilizzare quei soldi per potenziare in modo strutturale magari le terapie intensive, rifare gli ospedali laddove sono cronicari malandati. Ecco, voglio dire, la cosa va gestita, va vista in una prospettiva di medio periodo, secondo me, e con una potenzialità di obiettivo politico che farebbe anche fare un bel salto di qualità all'Unione Europea complessivamente, che è una partita tutta da giocare. Quindi, se ho ben capito, tu dici dal punto di vista economico è chiaro che è un topolino, perché ho capito la parte sanitaria, per carità, importante anche per ripristinare alcuni deficit sanitari che abbiamo visto. Non voglio tornare sulla polemica con la Lombardia, tanto tornerò sulla polemica sulla sanità lombarda più avanti, oggi non è il caso, ma mi sembra anche un po' speccioso chi dice ma perché se la prende con la Lombardia? Guardate i casi e decidiamo quali strutture sanitarie anche nel nord hanno retto meglio. Però chiusa questa parentesi, tu dici attenzione che qui è stato un compromesso politico e non si può giudicare solo da un punto di vista economico, perché si è evitato uno scontro che lasciava l'Italia complessivamente da sola e adesso comunque si è aperto un nuovo orizzonte, sempre politico ma poi con ricadute anche economiche, nel prossimo Consiglio europeo. Professor Tremonti. Ma l'Europa che abbiamo amato e sognato era il tempio della democrazia, l'acropoli delle idee, il faro della civiltà. Oggi mi sembra ridotta a uno sportello bancario più o meno tirannico, illusorio, usurario e alla fine anche fallimentare. Cerchiamo di fare l'inventario di quanto è stato definito. Tre punti, tre pilastri, lei ha detto, definiti, un quarto da costruire. Per inciso, tutto scritto in inglese, che è anche una cosa curiosa, visto che c'è stata la Brexit. Si insiste, forse perché c'è l'Irlanda. Allora, il cosiddetto SURE vale, calcolando che solo un differenziale di interessi vale per un paese come il nostro più o meno 100 milioni. Quindi, francamente, è una presa in giro. L'intervento della BEI presuppone che gli stati la capitalizzano, quindi c'è una fase di uscita dei soldi, verso, salvo che usino un trust, verso un ritorno che è comunque, francamente, giocato sul differenziale di interessi piuttosto modesto, molto modesto. Poi c'è il MES. Allora, qui forse il MES per le spese sanitarie, diciamo, quello che non ha più le condizionalità. Primo, forse bisognerebbe leggere il trattato, perché quale che sia la causale di impiego dei soldi, comunque è la troica, cioè comunque la procedura. Può essere una procedura benevola, è un veicolo che scende dal Brennero usando, portando aiuti umanitari, ma è certamente la troica, comunque va della troica. C'è una asimmetria, perché si prestano per 5 anni a fronte di quella che è stata, che è una emergenza attuale. È vero che puoi dire faccio gli ospedali futuri. Primo, credo che una quota di quei soldi vada comunque ai paesi che l'emergenza la stanno gestendo adesso. Noi in qualche modo i respiratori li abbiamo già comprati. Ma in ogni caso torno a dire, è la procedura. Ed è una partenza di un meccanismo di controllo, all'inizio sarà benevolo, ma non è affatto detto che non lo sia. Per inciso, per prendere 4 soldi varrebbe la pena di ritirarci da questo orrore e farci andare indietro un po' di miliardi, tanto per fare capire che cosa. Ecco, Tremonti, perché lei dice però il MES, quello per i costi sanitari diretti e indiretti, è comunque una troica, perché nel documento che abbiamo letto noi lì è la parte senza causa. No, non è vero. Senza... Ecco, ci sono comunque i controlli, tali che dovranno essere comunque presentati anche al Parlamento tedesco. Quindi, MES vuol dire troica, vuol dire procedura, chiamala come vuoi, finalizzala come vuoi, puoi dire che sono buoni e benevoli, che portano aiuti umanitari, ma è una procedura, per inciso. Tra avere un aiuto di questo tipo, che è solo un prestito, perché stiamo parlando di prestiti, non stiamo parlando di fondo. Su questo non ci sono dubbi. Allora, prestito per prestito, gli abbiamo dato a fondo perduto un sacco di miliardi, almeno prendiamoli indietro. Che sono 14,3 miliardi, perché noi dovremmo versare come terzo contribuente del MES, dopo Germania e Francia, in tutto 125 miliardi, perché avremo quasi il 18% del capitale. Ad ora ne abbiamo versati 14, no? Dico per finire, la parte potenzialmente più interessante è quella dei recovery che dovrebbero sostituire gli Eurobond, cioè il fondo per la ripresa, diciamo, quello che si discuterà. Proposti nel 94 da Delors, riproposti dal governo italiano nel 2003 e nel 2009, sempre in un qualche modo i primi bocciati dalla Commissione Prodi, i secondi sostituiti dall'impiego delle troiche dal governo Monti in Europa durante il 2011. Che cosa è, come dire, certo e che cosa è incerto? È certo che comunque lo chiamino, lo pitturino i capi di Stato e di governo con un qualche grado di retorica, comunque sarà in piedi a partire dal 1 gennaio del 2021, perché solo allora ci sarà il bilancio europeo, ammesso che lo chiudano per il settennato prossimo a partire dal 2021. Quindi oggi siamo prima della metà del 2020, per mesi, mesi e mesi non ci sarà nulla di efficace su questo piano. Un'altra cosa che mi sembra piuttosto sicura è il doppio debito, cioè il veicolo si finanzia sul mercato e raccoglie capitali, ma i capitali non li destina direttamente lui come era nei vecchi piani di Eurobond, no? Ti aiuta a indebitarti. Quindi, se non si capisce male, ma temo di capire bene, ci sarà un doppio debito, quindi l'aiuto non consiste nel farti avere fondi, ma di farti avere debiti, naturalmente a un tasso un po' più basso di quello che avresti diversamente. Per essere chiari, francamente il tempo è strategico. Siamo ad aprile, la crisi è devastante, è stata e sarà devastante. Aspettare a gennaio con la propaganda mi sembra francamente non fare il bene, ma fare esattamente il male. Allora, chiarissimo anche il suo punto, professor Tremonti. Dopo il metro pubblicità, vorrei capire da lei, da Alberto Rioli, intanto che cosa altro si può o si poteva fare? Nel senso che lei ha proposto questi microfoni, diciamo, a questo punto lasciamo stare i soldi europei, perché se devono essere a debito, la faccio facile ma per far capire a tutti, se devono essere a debito, meglio che il debito lo lanciamo noi con un'obbligazione, un prestito per il paese, con una scadenza lunghissima, che non venga modificata la tassazione e il rendimento per legge, perché tanto a questo punto almeno abbiamo un debito con i cittadini italiani più che averlo con investitori stranieri. Dall'altra parte vorrei capire sia da lei che da Alberto Rioli se si poteva trovare qualche altra soluzione. Alberto, prima hai fatto notare che forse l'intemerata iniziale o Eurobond o niente ha ridotto molto lo spettro poi della trattativa, nel senso che tutto si è un po' incancrenito. Dopo il metro la vostra risposta. Focus Economia. Allora, Alberto Rioli, dopo la tua e l'analisi anche del professor Tremonti, la domanda adesso è, però che cos'altro potevamo ottenere, vista anche come eravamo partiti, aggiungo io, lo dicevi anche tu, cioè quindi con uno scontro totale. Io ho avuto la sensazione che la Francia poi abbia fatto da mediatore, ma abbia fatto anche, come sempre, i suoi interessi, perché lei può reggere meglio a gennaio, diciamo, un fondo di recovery, come cavolo vogliamo, di ripresa, che parte a gennaio. Noi abbiamo anche un'emergenza più cogente, Alberto. Sì, questo è vero, hai ragione, però l'obiettivo politico per noi è molto rilevante, perché una cosa che non sottovaluterei, è vera la questione del doppio debito a rischio eccetera, ma non sarebbe più conveniente un'emissione nostra invece che un'emissione comunitaria, per così dire. Anzi, il grande obiettivo di un'emissione comunitaria è di abbassare i rendimenti, diciamo. Chiaramente avrebbe portato a casa il risultato straordinario della chiusura, la famosa chiusura degli spread, di cui alla gaffe della Lagarde di tempo fa. È evidente che questa cosa avrebbe plasticamente, segnerebbe un obiettivo politico che diventa immediatamente anche finanziario, si traduce, come posso dire, in termini numismatici di minori esborsi per gli oneri sugli interessi. Ma e quindi questo mi sembra la partita, la vera partita da giocare. È chiaro che è quella che l'Italia ha cercato di portare innanzi. Diciamo, l'aspetto tattico negoziale della tessitura diplomatica che è stata fatta nelle settimane scorse sembrava aver funzionato, perché in effetti la lettera dei 9 paesi poi sono diventati 12, il ruolo della Francia che si sgancia apparentemente dall'asse con i tedeschi e sposa le posizioni del Club Med all'interno dell'Europa, insomma, che gioca un ruolo molto importante. L'ulteriore azione di convincimento nelle ultime ore che insomma aveva portato sulla linea francese, soprattutto questo recovery fund, anche i tedeschi, era una cosa importante. Nel mezzo è chiaro che l'Italia deve difendere una posizione negoziale estrema, per così dire, da contrapporre all'Olanda, e quindi vai a fare il difensore degli Eurobond come sacro graal, però probabilmente c'è un difetto comunicativo, come posso dire, un eccesso, perché poi questa cosa ha un immediato contraccolpo sulla politica interna e sulla tenuta della maggioranza, perché i 5 Stelle solo con la parola nominale del MEF vedono rosso, quindi non c'è più nessuna razionalità nella discussione. Quello è l'errore, secondo me, tattico, che è un po'... Cioè, errore di comunicazione, vedo che Conte non ancora... Infatti Conte sta ritardando la sua conferenza stampa, che in realtà è legata alle prossime scadenze di apertura o di chiusura, però dovrà parlare anche chiaramente dell'accordo raggiunto ieri. Professor Tremonti, Alberto Rioli dice in sostanza, al di là di come è uscita la comunicazione, però se otterremo a fine aprile un recovery plan, cioè un fondo europeo per la ripresa, per la rinascita, chiamiamolo come cavolo vogliamo, garantito dall'Europa, avremo delle obbligazioni, un debito più conveniente che se non l'avessimo emesso noi, perché chiaramente è un conto attaccare l'Italia e speculare sull'Italia come rendimenti, l'abbiamo già visto nel 2011-2012, e un conto è farlo su un debito che comunque è emissione europea. Ah, Ma forse non, come dire, non ci siamo capiti o non ho capito sui numeri. Dal 1 gennaio dell'anno prossimo si comincia a pensare un fondo che organizza la cosiddetta recovery. E i numeri che girano sono 500 miliardi, 1000 miliardi, non ho idea, ma sono numeri futuri da dividere per 27. Che questo sia anche solo lontanamente comparabile col fabbisogno finanziario della Repubblica Italiana è francamente inaccettabile. Sono numeri totalmente diversi. Dovremmo indebitarci ancora di più per fare delle cose nuove che non si capisce cosa saranno secondo la guida dell'Europa. Io credo che seriamente sia la debacle dell'Europa, ormai è ridotta a latte, sembra, ripeto, uno sportello finanziario che somministra soldi che non ha, perché lei pensa di avere l'Europa, soldi a debito, tutto a leva, dà le garanzie ma i soldi dovrebbero venire da fuori e questo è francamente tragico. Ed è un punto. Sì, posso dire una cosa però, Tremonti, che questa Europa trasformata in uno sportello bancario, a mio avviso, ma non perché devo tifare sempre Italia, e anche e soprattutto grazie alle opposizioni ragionieristiche di Olanda, Finlandia e soprattutto la Germania. Cioè, io ho visto che Spagna, Francia, Italia, poi lei mi dice magari è retorica, ma hanno cercato di far capire che la posta in gioco non era semplicemente quanto strumento, quanta leva, era la tenuta, il futuro e quello che i nostri figli diranno di questa Europa. Mi sembra che però la lungimiranza di un paese come la Germania, che ha vinto le battaglie ma ha perso tutte le guerre, sia stata anche in questo caso scarsissima, forse sbaglio io però. Ma io per l'esperienza che ho, è giusto parlare di Germania, io ricordo quando una partita era trattabile, mandavano avanti per discussione la Finlandia col suo Parlamento, con sua Costituzione, quando la partita era in salita mandavano avanti l'Olanda. Ma dietro c'era comunque la Germania, certo, il suo blocco di potere e di paesi. Detto questo, torno a dire, stiamo parlando di ipotesi di investimento futuro, che naturalmente sarebbe anche positivo. Io nel 2003 ho proposto l'Eurobond e mi sono beccato la bocciatura da Prodi. Li ho riproposti nel 2010 con Juncker, non sospettabile di essere ministro dell'area latina, e tuttavia hanno preferito la Troica in Grecia e il governo Monti in Italia. Ma tornando al punto, al problema che c'ha adesso il governo, chi di annunci colpisce, di annunci perisce. Io credo che sia una debacle comunicativa. Io ricordo frasi del tipo o si fa l'Europa o si muore. Si muore, quantomeno chi fa gli annunci in questo modo. Realmente io ho trovato, come dire, poco prudente o se vuole anche poco serio, come dire, artefice vittima della sua propaganda. È stato un governo che ha annunciato molto, ha chiesto molto e devo dire le cose giuste, gli Eurobond è la cosa giusta. E poi dopo firma l'opposto, francamente doveva, se voleva essere pragmatico, fare una comunicazione, una politica prudente, invece è stato da una parte, tra l'altro in Germania, in televisione, come dire, qui si fa l'Europa, si muore, si dà il caso che qualcuno muore, non necessariamente questa Europa. Allora, senti, in questi termini funziona, cioè dire non c'è i soldi. Ah, scusate, poi l'altra cosa, non è vero che siamo arrivati a questo punto per via della burocrazia, siamo arrivati a questo punto per via della politica, una politica che è stata fatta dal lato della Germania, facendo quello che ritenevano fosse l'interesse della Germania, dal lato dell'Italia con la chiamata dello straniero che è avvenuta nel 2011. Le dico una cosa, nonna. Vabbè, nel 2011 Tremonti avevate uno spread che è arrivato a livelli insostenibili adesso. Quasi che senta, quello era l'effetto e non era la causa. Le dico una cosa interessante. Mi ha molto colpito. Durante una conferenza, una riunione a Londra, un molto importante politico inglese, tra l'altro laburista, dice l'errore che ha fatto il Regno Unito nel 2011 è stato abbandonare l'Italia alla Germania. perché nel nostro interesse c'è sempre stato bisogno di un contrappeso rispetto alla storia. L'Italia l'hanno fatta in parte anche da noi, anche gli inglesi. Ora, quello che è successo è stato realmente uno stravolgimento, causato da tante cose, dall'eccesso tedesco, dall'opportunismo italiano che vedeva nella chiamata dello straniero la possibilità di avere un ruolo che diversamente mai avrebbe avuto. Tutto questo insieme ci ha portato a un danno in Europa per l'eccesso di potere della Germania. No, ma guardi, sull'eccesso di potere della Germania io non ho niente da obiettare. Non voglio tornare al 2011 perché mi avviso lì ci furono dei grossi problemi, lei lo sa meglio di me, anche nella dialettica dell'allora governo italiano tra lei e il Presidente del Consiglio, ma voglio stare sul presente. Sentiamo cosa ha detto invece il Ministro Gualtieri sulla sfida, insomma quello che deve arrivare dal prossimo vertice di fine aprile. Molti ascoltatori mi fanno notare, guardi, che non si è firmato ancora nulla, non ho mai detto che è stato firmato, però stiamo valutando e commentando il compromesso uscito ieri. È chiaro che poi a fine aprile andrà tutto quanto ratificato e poi c'è il voto dei parlamenti. Ho solo detto, diamo un commento all'accordo uscito ieri. Gualtieri che dice, attenzione, ci vorranno poi un complessivo di più di tra 1.000 e 1.500 miliardi di euro, soprattutto arriveranno dall'accordo sul recovery, sul fondo per la rinascita. Sul recovery plan naturalmente ci sarà la battaglia più dura, perché l'Italia, insieme a un folto gruppo di alleati, chiede che questo strumento sia messo in campo rapidamente e che abbia una dimensione grande proprio attraverso l'emissione di eurobond, di titoli comuni. Ci sono alcuni paesi che si oppongono a questa proposta, però siamo riusciti a metterla sul tavolo come una delle quattro proposte, quindi è adesso la proposta e ci sarà naturalmente una battaglia al Consiglio europeo e noi ci batteremo. Io già l'ho detto, per noi questo pacchetto esiste solo se ci sono tutti e quattro i suoi elementi. L'ho detto con chiarezza al momento delle conclusioni dell'Eurogruppo e naturalmente quindi al Consiglio europeo noi saremo molto determinati, perché gli altri tre strumenti complessivamente fanno circa 500 miliardi, noi abbiamo detto sempre che serve più di un trilione a livello europeo, almeno un trilione a livello europeo, quindi questo fondo per la ripresa deve avere dimensioni molto significative, io penso complessivamente si deve arrivare a un trilione e mezzo e quindi deve essere alimentato con titoli comuni per sostenere insieme a tutti gli altri strumenti una risposta straordinaria dell'Europa a questa crisi. Allora Alberto Riolio, ho 5 minuti scarsi, se ho ben capito tu dici qui c'è stato... occorre cambiare la comunicazione verso il paese perché non si può lasciare la comunicazione alla Lega che dice, o anche una componente forte dei 5 Stelle che, come sente la parola MES, fa come il toro con il colore rosso, e far capire che comunque c'è stato un passo in avanti sul MES per scopi sanitari e soprattutto che la partita viene rinviata a fine aprile con il piatto più importante. E quindi, se ho ben capito per come la dici tu, la partita è ancora aperta, fate capire all'opinione pubblica, se posso permettermi un consiglio, che in realtà è meglio così che non far saltare completamente il tavolo? Ma insomma, io credo che far saltare il tavolo, il re italiano è nudo, cioè noi siamo esposti ai 4,20 e verremmo presi a schiaffi dalla speculazione in 5 minuti. E non avremmo sicuramente i mezzi, visto poi la devastazione che sta facendo il virus, non li avremmo comunque, ma a maggior ragione non avremmo i mezzi per far fronte a uno sciame speculativo contro di noi. E quindi non è interesse di nessuno, perché naturalmente sarebbe un problema, un vulnus enorme per l'euro, insomma si aprirebbe uno scenario mostruoso. Non credo che quindi nessuno trovi questa convenienza alla fine, quindi si andrà avanti come è nella storia dell'Unione Europea, compromessi successivi. Quello che è stato fatto ieri è un compromesso, è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda di come lo si voglia guardare, e credo che però ci sia una posta politica molto rilevante, perché se effettivamente nei tempi che non siano effettivamente biblici si possa arrivare a un accordo che trova una modulazione di uno strumento finanziario comune, è una cosa importante, è un salto di qualità enorme che rispetto agli strumenti classici non si riconosce, perché anche lui ha cercato di perseguirlo, non solo lui chiaramente, c'è una grande tradizione italiana che ha spinto verso questo tipo di evoluzione. E quindi è un obiettivo politico che vale la pena di essere di giocarsi e far capire anche all'opinione pubblica che si è spostato in là, ma resta sul tappeto il tema più grosso, che farebbe fare il salto di qualità rispetto agli strumenti, agli altri strumenti che, per carità, sono strumenti classici, sì, riadattati come importo forse alla crisi, ma classici. Professor Tremonti, mi chiedo anche molti ascoltatori, ma insomma lei che cosa avrebbe fatto a questo punto, vista la piega che aveva preso ieri e nei giorni prima lo scontro con appunto l'Olanda di facciata, ma la Germania dietro? Difficile dire cosa. Certamente l'eccesso di propaganda, di retorica, di protagonismo di tanti protagonisti di questa storia è stato francamente negativo per il paese. Dato, conoscendo, come dire, il teatro europeo, andare in scena in questo modo è stato un danno per l'immagine dell'Italia. Va bene? Questo credo sia fondamentale. Un teatro terribilmente difficile, ma non va in scena come se fosse un personaggio di Shakespeare o qualcosa del genere, o di commedia napoletana. Detto questo, io ho sentito da ultimo dei numeri, ma forse non è chiaro il punto essenziale. Cioè, da qui in avanti i numeri dei tre strumenti sono numeri minimi, forse addirittura in perdita. Sono tutte garanzie o ipotesi di debito, ma soldi non ci sono. Come per inciso mi pare di capire sul decreto liquidità, che non c'ha neanche la copertura, quindi il primo che non ci crede è il governo stesso. Sul punto dei bond europei, torno a dire, li ho proposti per tanti anni e mi sono preso sempre, come dire, anche qualche critica, però andavano avanti. Dobbiamo essere sinceri e seri, da 1.000, 2.000, 3.000 trilioni. Stiamo parlando di una cosa che ci sarà forse, speriamo che ci sia, a partire dal 1 gennaio, quindi per 8 mesi non se ne parla. Poi comincerà la costruzione di uno strumento che dovrà entrare in funzione con le condizioni, okay. Ma comunque stiamo parlando di debito, stiamo parlando di prestiti, non sono soldi regalati, sono soldi a leva, sono garanzie che vengono. Ben vengano, ma sentirmi dire trilioni, triliardi, fantastiliardi, eccetera, io lo trovo francamente non serio, okay, nei confronti di un paese fondatore come è l'Italia, e non serio nei confronti degli italiani. Chiar- perché non si può fare più questa comunicazione. Chiarissimo anche sul punto di vista. Grazie ad Alberto Rioli e al professor Giulio Tremonti. Poi qualcuno, avremo anche, come abbiamo fatto in queste settimane, tantissimi altri ospiti nei prossimi giorni sugli strumenti alternativi, proposte alternative. La mia posizione l'ho detta all'inizio, quindi non devo ribadirla, sul bicchierino mezzo pieno, mezzo vuoto, ma di bicchierino stiamo parlando. La partita grossa si gioca il 23 aprile e lì bisogna giocarla bene. Grazie a ambedue. GR24, poi la conferenza stampa della Protezione Civile e il tema invece della comunicazione sulle riaperture, non la data, ma come comunicare l'unlockdown, lo sblocco lento del paese. Focus Economia. Minuti. Allora, sono già usciti i dati della Protezione Civile, li riepilogo io per chi li avesse persi. Allora, il numero di contagiati in più, sapete che la cifra è diversa, un conto sono i nuovi contagiati, un conto è il calcolo complessivo che tiene conto anche dei dimessi e invece dei deceduti, ahimè. I nuovi malati sono 1.396 rispetto a ieri. Giovedì l'incremento era stato di 1.615, il giorno prima di 1.195, quindi si mantiene una crescita dei nuovi positivi dell'1,4%. Complessivamente siamo a 3.951 in più l'incremento dei contagiati totali, compresi morti e guariti, 3.951, ieri eravamo, che porta il totale, scusatemi, a 147.000. Le persone decedute sono 570 oggi, in calo rispetto a ieri 610, più alte di mercoledì 540, in calo rispetto a martedì e lunedì che erano 604 e 636. C'è un incremento del 3%, ieri era stato del 3,5%, il giorno prima del 3,2%, il 3,7%, martedì il 4%, lunedì anche qui possiamo dire che il 3% è una media della settimana. La settimana scorsa viaggiavamo invece come un incremento dei deceduti tra il 7 e il 5%, tra l'8 e il 5%, la settimana prima ancora, e quindi dal lunedì 23 a domenica 29, viaggiavamo tra il 13 e l'8%. Quindi, prendendo le settimane, si è passati da un incremento dei decessi tra il 13 e il 12%, che poi è passato tra l'8 e il 6%, settimana scorsa, settimana che si sta chiudendo è andato dal 5 al 3%, quindi c'è obiettivamente un calo nell'incremento, ed è ovvio che 570 deceduti non possono essere una buona notizia. Però la Lombardia ha fatto notare, veniamo ai cali, invece i guariti hanno fatto più 7%, i positivi hanno fatto più 1,4%, i nuovi positivi confermando una tendenza in atto. Anche qui i nuovi positivi sono stati in questa settimana che sta chiudendo tra il 2 e l'1,7% di ieri, quindi intorno con lo 0,9 martedì, l'1,3 mercoledì, oggi appunto 1,4, una media intorno all'1,5%. La settimana prima l'incremento dei positivi viaggiava con un aumento medio del 3%, quindi un aumento più del doppio rispetto a quello di questa settimana. La settimana prima ancora, quindi diciamo, l'incremento viaggiava tra il 7 e il 5% dei positivi. Per quello che riguarda la Lombardia, dicevo, casi positivi sono stati nuovi 1246, ieri 1388, continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva, sono 1202 in Lombardia, un calo di 34, e la terapia intensiva va bene tra virgolette anche per a livello nazionale, perché calano per il settimo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. A questo punto sono 3.497 i pazienti nei reparti, 108 in meno di ieri. Faccio notare che una settimana fa eravamo a 4.100, oltre 4.100. E ancora calano comunque anche l'andamento dei ricoveri. Quindi si conferma, diciamo, non ho visto altre dichiarazioni di Borrelli, si conferma un appiattimento di queste curve, sia dei nuovi positivi, sia dei deceduti, e sia anche invece un calo, un segno meno sui ricoveri in terapia intensiva. Certo è che insomma il dato sui deceduti è ancora alto, e che più 1,4% nei positivi va ancora ridotto, però insomma diciamo che ci dicono sempre le autorità sanitarie di guardare la settimana, non il singolo giorno, e la media settimanale è quella che vi ho ricordato. C'è stato obiettivamente un calo, anche perché se ci confrontiamo con un mese fa, ragazzi, i positivi aumentavano di giorno in giorno del 16, del 20%, cioè la settimana da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo avevamo un incremento giornaliero dei positivi tra il 21 e il 24, il 16%. E anche, ahimè, i deceduti crescevano del 30, del 20, del 23%. È chiaro che poi adesso, avendo una base più ampia, il numero poi complessivo resta alto, ma la percentuale è fondamentale per capire come sta reagendo l'intero sistema. E devo dire, guardate bene quanto sono calati in una settimana i ricoveri in terapia intensiva, quindi più spazi in terapia intensiva, meno pressione sulle strutture sanitarie, che era il vero problema all'inizio dell'esplosione del coronavirus. Allora, non posso andare avanti sul MES, sull'accordo dell'Eurogruppo. Da questo punto di vista avete sentito le opinioni diverse tra Alberto Rioli e Giulio Tremonti. vedremo. La parità grossa, a mio avviso, viene rinviata, non a mio avviso, a avviso di tutti, al 23 aprile. L'abbiamo sentito anche dalle parole del ministro Gualtieri. La reazione invece dell'opposizione, Salvini ha parlato di accordo da Caporetto, bisogna sfiduciare Gualtieri, non ci sono gli Eurobond ma c'è il MES, e anche la Meloni ha detto abbiamo firmato per attivare il MES. I 5 Stelle sono contrari al MES, ma ho visto Crimi, che è il capo politico dei 5 Stelle, ha detto il MES non è stato firmato, attivato nessun MES e non lo faremo. Non importa quanto siano ridotte le condizionalità. Noi continuiamo con la linea del presidente Conte, sì Eurobond, no MES. Dunque, qualcuno mi sta segnalando che ci sono persone in giro per le seconde case. Io ho visto che hanno previsto molti dispositivi, molti provvedimenti hanno preso. Tra l'altro c'è stato anche, vi darò dopo il numero delle sanzioni comminate negli ultimi giorni. Però qui il tema è, a mio avviso, anche di comunicazione, lo è anche nel caso del MES, e cioè nessuno mette in dubbio che il governo stia ascoltando in primo luogo la comunità scientifica e medica, e nessuno sta dicendo che dobbiamo buttare via tutto lo sforzo fatto in un mese per riaprire alla carlona in fretta e furia. Però è al di là della variabile economica, perché voglio essere chiaro su questo, certo che a me la cosa che sembra più importante in questo momento è far capire agli operatori economici, quindi alle imprese manifatturiere, alle imprese dei servizi, al mondo del commercio dettaglio, quali sono le fasi, e far capire anche psicologicamente agli italiani quali sono le fasi. Vorrei parlarne dopo, al traffico non c'è, e quindi bene, insomma, anche no, il traffico non c'è come appuntamento, mi sa che non c'è proprio il traffico in sti giorni, allora non ho bisogno di lasciare nessuna pausa. E vorrei fare un esempio nel salutare e nel ringraziare, che è di nuovo tornato a trovarci, il professor Paolo Legrenzi, che è professore emerito di psicologia cognitiva all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Che si occupa da sempre anche del rapporto tra psicanalisi e mondo economico. Allora le faccio un esempio, professore, vediamo se ha un senso. E lei ci ha spiegato molto bene la differenza le settimane scorse tra incertezza e paura, tra angoscia e paura. La paura, che equivale poi in economia alla differenza tra rischio e incertezza, cioè il rischio lo puoi calcolare, lo gestisci, lo metabolizzi e ti aiuta anche a non fare decisioni troppo avventate, così come la paura la puoi metabolizzare, mettere da parte, ti aiuta a non prendere decisioni avventate, appunto, ed essere prudente. E l'incertezza in economia o l'angoscia in psicanalisi è l'assenza di un riferimento. Resto su questo solco. Fino adesso, secondo me, tutte le misure prese, sia dal punto che hanno, con l'impatto economico che hanno avuto, quindi la chiusura del circa la metà delle attività, che sulla vita delle persone, hanno risposto all'esigenza di angoscia, o quindi di sostanzialmente incertezza. Non sapevamo la distribuzione, non conosciamo, non si capiva nulla, se ne sa ancora molto poco di questo virus, e tutti quanti abbiamo accettato il contenimento, devo dire, in maniera sostanzialmente molto corretta, a parte alcuni coglioni virus. Adesso però inizia, io sento nel paese, sia le categorie economiche che anche le persone normali, il bisogno di iniziare ad avere un minimo di orizzonte. Le volevo fare questo esempio. Io personalmente l'unica forma di contenimento obbligato che ho avuto in questi anni è stato 5 anni fa, quando mi sono rotto brutalmente il malleolo e sono rimasto a casa 1,5 mesi, bloccato tra ferri, tutto. Ora, il problema non era solo stare a casa 1,5 mesi, il vantaggio lì qual era? Che i medici ti dicono, guardi, adesso lei sta fermo 1 mese, poi fra 1 mese inizia a camminare con le stampelle, appoggia male il piede, però può fare qualche spostamento, passate altre 2 settimane, quindi fra 2 mesi può levare la stampella, iniziare a caricare, quindi mi danno un percorso, e allora io a quel punto inizio a dire, dai, tieni botta il primo mese che poi riuscirai almeno a fare qualcosa in più, e tieni botta la seconda settimana, cioè mi dai una prospettiva. Non mi interessa la data, perché poi il medico stesso va a verificare se non c'è, se diciamo la la parte di terapia non sta funzionando bene, allungherà le date. Non sto dicendo che siano scolpite sulla pietra, ma questo aiuta il paziente a immaginare un futuro. Lei non ritiene che in questo momento il governo che stiamo attendendo dovrebbe non solo dire altre 2 settimane, ma iniziare a disegnare anche una prospettiva per uscire dalle incertezze e quindi dall'angoscia e arrivare invece a gestire in maniera un pochino più razionale la paura, no? Sì, il discorso è complesso. Anche lei nella presentazione ha detto scienze, le scienze e la medicina. Esistono anche una serie di studi scientifici. La sento male, mi scusi, esistono anche? Una serie di studi scientifici, mi sente? Sì. Sulla comunicazione, su come fare comunicazione in questi casi, cosa dire e come dirlo. Ecco, noi abbiamo impostato la comunicazione tutta sugli aspetti biologici e medici e quindi questo ha accentuato quella paura, quell'angoscia che dice lei, perché tutti gli altri aspetti legati alla nostra quotidianità, come lei quando ha dovuto stare in casa 1 mese e mezzo, cioè la quotidianità di lavoro e così via, sono passati in subordine rispetto alla forte paura che è stata ingenerata dalla comunicazione centrata solo sugli aspetti biologici. Questa forte paura è stata funzionale per far accettare un sacrificio così forte. Siccome però le comunicazioni che giungono a questo riguardo non sono comunicazioni coerenti tra di loro, incomincia a serpeggiare un sentimento, un atteggiamento che giustamente non vede salute e benessere economico e benessere, diciamo, esistenziale in contrapposizione, ma si rende conto che queste due, diciamo, aspetti sono due facce della stessa medaglia. Si sono opposti gli Stati Uniti, dove le condizioni economiche sono così modeste che l'aspettativa di vita scende. Tutto ciò è molto difficile da misurare in Italia, perché si ha questa impostazione per cui abbiamo da un lato un pericolo, una paura di questo pericolo, e poi a lungo termine uno svantaggio delle condizioni di vita se non lavoriamo, se non abbiamo un certo livello di reddito e così via. L'impostazione biologistica tende a vedere questi due aspetti, sopravvivere da un punto di vista biologico e vivere da un punto di vista della persona nella sua completezza, come contrapposti, perché tutta la comunicazione li ha presentati in maniera contrapposta, perché il sacrificio era generato dalla paura del maleficio biologico. Oggi naturalmente, siccome questa impostazione non ha nessun fondamento scientifico, ovviamente, perché anzi da un punto di vista scientifico sono due facce della stessa medaglia, noi non siamo fatti a compartimenti stagni, capisce? Certo. Una persona che sta in casa, come lei ha descritto quando è stata bloccata 1 mese, è una persona che ha molti aspetti nella sua esistenza. Lavora, deve stare bloccato, deve avere una prospettiva, deve immaginare il suo futuro e così via. Paradossalmente sappiamo di più di questi aspetti, perché sono, la mente umana è più stabile, quanto non sappiamo sull'evoluzione biologica di questo virus, che è terrorizzante proprio perché ci siamo resi conto che anche gli esperti sanno molto poco. Molto poco. Inoltre gli esperti di tipo biologico sono degli scienziati che quando hanno opinioni diverse dicono non so, perché l'unica cosa che la scienza sa per certo sono quello che è falso, mentre la gente vorrebbe chiedere alla scienza qualcosa di vero. La scienza non fornisce verità, con certezza fornisce solo falsità. E allora questo nodo è un nodo di cui non credo, come dico sempre, siano responsabili i nostri governanti o coloro a cui loro hanno delegato la comunicazione, perché penso che la conoscenza di questo settore scientifico sia così bassa che non ci si può neanche rendere conto che si è ignoranti, mentre riguardo agli aspetti biologici tutti hanno un atteggiamento, diciamo, di riverenza verso la scienza. Il problema più profondo, che non è il caso qui di discutere, è la concezione della scienza diffusa nelle classi dirigenti di questo paese. Vabbè, questo non, io so dove voglio arrivare, però andremo un po' troppo in là. Però tornando alla parte concreta, lei dice fino adesso c'è stata una contrapposizione tra la paura e l'angoscia, diciamo, di carattere biologico, che ha permesso a tutti noi di accettare delle cose che non avremmo mai accettato. Devo fare anche gli elogi al Sud, poi lo faremo nelle prossime settimane. Stanno rispondendo anche alla sanità, per quello che vediamo ci sono casi di eccellenza. Quindi ci ha permesso di fare di accettare delle cose che non avremmo mai accettato. E a quel punto era una contrapposizione, cioè il virologo ti diceva: attenzione, se tu esci, se riapri l'attività produttiva, danneggi, crei altri malati, crei altri morti in ospedale e sostanzialmente saturi la struttura ospedaliera. Adesso lei dice sarebbe il caso di passare a una fase in cui le due cose non sono in contrapposizione, non è che esista, ma io sono una persona che sì, vuole, è attenta alla sua salute, ma deve pensare anche al suo futuro economico, ha delle incertezze esistenziali su quello che capiterà alla tua vita professionale, deve gestire una mappa e una rete di relazioni, i figli e quant'altro. Glielo dico perché da quello che abbiamo capito il Comitato Scientifico della Protezione Civile lavora a una classificazione del pericolo in vista delle riaperture, cioè luce verde, gialla o rossa. Allora le chiedo, il rosso per esempio riguarderà ristoranti, bar, ma anche dentisti, parrucchieri e locali pubblici, anche scuole e università. Rischio medio riguarda i commessi, in generale gli esercenti che lavorano nel dettaglio, ma anche le fabbriche e gli uffici. E poi codice verde, le prime che verranno allentate, i mobilifici, ma anche attività legali e di contabilità e assicurative, sempre con un limite al numero dei clienti, mascherine e sanificazioni. Secondo lei potrebbe portare a un'unità una comunicazione che iniziasse a dire a tutti noi: guardate, sappiamo che la vostra vita non è solo fatta di biologia e di non prendere coronavirus, ma è fatta anche di altro, e allora vi diciamo che 24, dico le date a cavolo, 24 aprile apriranno le attività, 2 maggio partiranno, per gli altri ci vorrà bisogno di più tempo, ma inizia a dare un pochino di articolazione, non solo la parte biologica. Sì, questo sarebbe quello che dovrebbe essere plausibile aspettarsi con una fonte unica di comunicazione e con una, diciamo, autorevolezza che deriva dal fatto che questo non viene fatto, non è oggetto di disputa o di differenze, perché vede, questa è una pandemia a livello mondiale, quindi a differenza del terrorismo in Stati Uniti nel settembre 2001, le persone cominciano a fare confronti. In questo momento in Corea, in questo istante, stanno votando, quindi il Sud Corea è riuscito a organizzare le votazioni. Nello stesso momento in altri posti, in Germania lavorano. L'altro giorno voi parlavate della stessa azienda che lavora in Germania, sì, e non lavora Pasini, qui. Certo. Pasini, esatto, la Ferrara. Allora Ferrari. Le persone cominciano a fare questi confronti e si domandano quindi il rapporto tra queste due facce che sono state presentate erroneamente contrapposte e andrebbero armonizzate. Quindi ci vorrebbe un programma, diciamo, unitario di uscita comunicato, perché in questo caso una persona potrebbe capire in Veneto 60% delle aziende lavorano, lei deve spiegare ai lavoratori di un'azienda perché loro sì e l'azienda a fianco no. Se lei avesse un programma con dei parametri, lo spiegasse, avrebbe una situazione analoga di lei bloccato in casa che le dicevano: guardi, aspetti, tra 20 giorni togliamo il gesso, poi certo, farà 10 di riabilitazione. Ecco, tutto questo è stato l'aspetto più carente che diventa più grave, perché adesso un po' alla volta, quando scemerà la paura del contagio, sì, biologico, perché lei ha già mostrato i dati settimanali, lei dovrà avere una coerenza di comunicazione, certo, ma anche di operatività su questo aspetto. Cioè non si le grandi aziende petrolifere, la Shell, quando ha avuto il grande guaio, per esempio, che ha sporcato tutto il Golfo del Messico, hanno già un progetto dentro se succede una crisi di questo genere. Sì. Qui invece l'impressione è che chi decide senza avere nessuna progettualità. Questa è l'impressione che che l'opinione pubblica incomincia a farsi. No, e lo dico al governo perché, ripeto, all'inizio tutto era comprensibile, eravamo in emergenza, siamo stati la cavia europea e nessuno ha criticato anche il governo per le misure fortissime che poi gli altri hanno seguito e tutti ci sono venuti a ruota. Adesso però a mio avviso occorre che il governo si metta in testa anche come comunicazione, non le date ma la fase 2 di comunicazione al paese, e che inizia a dire al paese: guardate, appunto facevo l'esempio con il sottoscritto, quando, tieni botta altre 2 settimane e poi la tua attività, oppure tieni botta 3 settimane perché la tua situazione è più complessa di un altro e quindi dovrai aprire a metà maggio, non potrai aprire, ma devi iniziare a dare e non puoi appellarti solo ai virologi, perché i virologi bravissimi ma non sono in grado di dirti di gestire tutto il resto delle complessità di un paese, relazioni umane, relazioni professionali ed economiche. Io non sono fatto solo di batteri, di virus e quant'altro, ho bisogno anche di avere prospettive sul resto, e questo mio avviso spero che arrivi nella comunicazione, che non sia un'altra comunicazione solo per dire resteremo chiusi fino al 2 maggio, punto, e poi vi faremo sapere. Sarebbe devastante anche sul consenso per il governo, che pure ha avuto. Grazie professor Legrenzi. Da Sebastiano Barigioni un ringraziamento a Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro per l'assistenza anche questa settimana, un augurio a voi di un buona Pasqua da passare rigorosamente in casa. Noi ci risentiamo martedì.